Il contributo gratuito di quel tipo, pieno di spirito, causò un bel po' di riso nell'entourage. Quanto a Bloom, egli, senza l'ombra di un sorriso, guardava semplicemente in direzione della porta e rifletteva sulla storica storia che aveva destato uno straordinario interesse a suo tempo, quando i fatti, ad aggravar la cosa, furono resi di pubblica ragione con le consuete lettere amorose che erano state scambiate fra i due, piene di dolci nonnulla. Dapprima era stata una cosa rigorosamente platonica, finché la natura non fece sentire la sua voce e un vivo attaccamento ebbe a svilupparsi tra di loro, finché a poco le cose giunsero all'acme e la cosa correva su tutte le bocche, fino a che arrivò il colpo di grazia, che fu accolto con gioia da diversi maldisposti, decisi a provocare il suo crollo. Per quanto la faccenda fosse di dominio pubblico già da tempo, ma non nella misura sensazionale cui infine pervenne. Poiché però i loro nomi erano accomunati e poiché pertanto egli era il suo favorito dichiarato, dov'era la necessità di proclamarlo ai quattro venti al colto e all'inclita? Il fatto cioè che egli avesse diviso il letto seco lei, come venne a galla sul banco dei testimoni, sotto vincolo di giuramento, quando corse un brivido nell'aula piena zeppa, letteralmente elettrizzando tutti, sotto forma di testimonianze, attestanti di averlo visto nel tale e tal'altro giorno, nell'atto di sgattaiolare da un appartamento al pian di sopra con l'aiuto d'una scala e succintamente vestito, essendovi penetrato in condizioni analoghe, un fatto da cui i settimanali, un poco appassionati all'ubrico, ricavarono palate di quattrini. Mentre tutto l'affare si limitava poi a questo, che era solo questione di un marito il quale non era all'altezza e non c'era in comune tra di loro altro che il nome. E poi era comparso sulla scena un vero uomo, forte fin quasi ad arrivare a esser debole, e vittima delle malie di quella sirena, fino a obliare i legami familiari, il solito seguito, bearsi del sorriso della donna amata. L'eterna questione della vita coniugale, inutile il dirlo, si impose di nuovo. Può il vero amore, supponendo che ci sia in ballo un terzo individuo, esistere tra marito e moglie? Domanda difficile. Pertanto la cosa non li riguardava minimamente, se egli, pur trasportato da un'ondata di follia, le serbava affetto. Egli era invero un magnifico esemplare di virilità, con in più doni evidenti di ordine superiore, se confrontato con l'altro, quella comparsa in uniforme, che era proprio il classico tipo di tutti i giorni. Addio, mio bel capitano, il solito cavalleggero, 18° ussari, per essere più precisi. È un vero fiammifero, senza dubbio, il condottiero caduto, cioè, non l'altro. In quel modo, tutto suo, di cui essa naturalmente, donna qual era, si avvide subito, giudicando essere egli atto ad arrivare molto lontano, il che egli prometteva di fare, finché i preti e in genere i ministri del Vangelo, i suoi fedelissimi d'un tempo e i suoi adorati fittavoli sfrattati, che egli aveva validamente servito nelle province rurali del paese, strenuamente battendosi per loro, in un modo che superava ogni loro più ottimista aspettazione, gli combinarono un bel pasticcio coniugale, dandogli la croce addosso all'usato modo del calcio dell'asino di cui narra la favola. Chi si volgesse ora a guardare il fatto in una sorta di inquadratura retrospettiva appariva tutto come un sogno. E il ritorno sarebbe la cosa peggiore da fare, perché manco a dirlo ti farebbero sentire come un pesce fuor d'acqua in un mondo che continua a cambiare col cambiare dei tempi. Infatti, rifletté, Irish Town Strand, località in cui non era più stato da parecchi anni, era un tantino cambiata, da quando, come accadde, egli era andato a risiedere dal lato nord. Nord o sud che si fosse, era sempre la solita storia di una passione frenetica, pura e semplice, che manda tutto a carte 48, e ciò veniva a confermare quel che aveva detto, dato che anche lei era una spagnola, o una mezza spagnola, tipi che non fanno mai le cose a metà. Il focoso abbandono del sud, che butta all'aria ogni residuo di decenza. Come conferma in pieno quanto venivo dicendo, disse con ardore nel seno a Steven, del sangue del sole. E se non mi sbaglio di grosso, era pure spagnola. La figlia del re di Spagna, rispose Steven, aggiungendo un qualcosa di molto imbrogliato circa arrivederci e addio cipolle spagnole. E quella prima terra fu chiamata il morto, e da Ramhe e da Scilly ce n'eran tante tante. Ma davvero? Esclamò Bloom sorpreso, ma niente affatto attonito. Non mi è mai giunto all'orecchio. È possibile, tanto più che ci è vissuta lì. Così la Spagna, evitando con cura il libro che teneva in tasca, Dolcezze del, che gli richiamava alla mente, tra l'altro, quel libro non restituito alla biblioteca di Capel Street, tirò fuori il portafoglio e, facendo un rapido inventario del suo contenuto, finalmente, a proposito, non pensa lei, disse, trascegliendo con aria pensosa una foto che mise sul tavolo, che questo sia un tipo spagnolo? Steven, ovviamente apostrofato, abbassò gli occhi su quella foto in cui si vedeva una signora dalle forme abbondanti, con le sue carnose attrattive apertamente in evidenza, poiché era nel pieno fiore della sua femminilità, in un abito da sera ostentatamente scollato per l'occasione, così da offrire una generosa esibizione del petto, con qualcosa più di una fuggevole visione dei due seni, le labbra carnose e semiaperte, e i denti perfetti, patentemente seria, accanto a un piano sul cui leggio stava nella vecchia Madrid, una ballata, graziosa a suo modo, che era allora in gran voga. I suoi occhi, della signora, scuri, grandi, guardavano Steven, presto a sorridere di qualche cosa degna d'ammirazione, essendo Lafayette di Westmoreland Street, primo fotografo d'arte di Dublino, il responsabile dell'esecuzione estetica. Mrs. Bloom, mia moglie, la prima donna, Madame Marion Tweedy, sottolineò Bloom, presa qualche anno fa, nel 96 o giù di lì, molto somigliante a quel tempo. Accanto al giovanotto guardava anche egli la foto della signora, ora sua legittima sposa, la quale, egli asserì, era la dotata figlia del maggiore Brian Tweedy, e aveva mostrato in tenera età mirabile disposizione per il canto, avendo fatto il suo primo inchino al pubblico alla verde età dei bei 16 anni. Quanto al volto era un'immagine parlante in fatto d'espressione, ma non rendeva giustizia alla sua figura, che di solito era assai notata, ma che non risaltava a suo pieno vantaggio in quella toilette. Avrebbe potuto senza difficoltà, disse, posare a figura intera, per sorvolare poi su certe curve opulente del. Lui non sorvolò, essendo un po' artista nei ritagli di tempo, sulle forme femminili in generale, dal punto di vista dello sviluppo, perché si dava il caso che non più tardi di quel pomeriggio avesse visto quelle statue greche, perfettamente sviluppate come opere d'arte, al Museo Nazionale. Il marmo, sì, rendeva l'originale, spalle, di dietro, tutta la simmetria, tutto il resto. Via, era puritanismo. Però, la sovrana di San Giuseppe, allora, bande, figne trois trop, laddove nessuna foto ci arriva, perché non è arte, via, in una parola. Quasi invasato dall'argomento, gli sarebbe piaciuto molto seguire il buon esempio del lupo di mare e lasciar là l'immagine, a parlare da sé, col pretesto che lui, cosicché l'altro potesse inebriarsi della bellezza, essendo la sua figura sulla scena, francamente, un vero spettacolo in sé per sé, a cui la macchina fotografica non poteva rendere giustizia. Ma ciò non era conforme all'etichetta professionale, per quanto fosse in vero una bella notte tiepida e pur mirabilmente fresca, data la stagione. Perché dopo la pioggia viene il bel tempo. E lui sentiva davvero lì per lì il bisogno di far quello che aveva pensato come una voce interiore e soddisfare un'eventuale necessità facendo un po' di moto. Nondimeno rimase fermo a sedere, guardando la foto lievemente sporca, solcata da curve opulente. Niente peggio per l'uso comunque. E poi distolse lo sguardo sopra pensiero, con l'intenzione di non accrescere ulteriormente l'eventuale imbarazzo dell'altro, intento a calibrare la palpitante carne opulenta di lei. In effetti, la lieve sporcatura era solo un'attrattiva di più, come nel caso della biancheria lievemente sporca, che è come nuova, anzi meglio in effetti, scomparso l'amido. E se non fosse stata in casa quando lui... Ho cercato quel lume che mi ha detto, gli venne in mente, ma solo come una vaga idea fuggevole, perché allora si ricordò del letto cosparso di cose la mattina, eccetera, e quel libro su Ruby, col metti in che cosa, sic... Che certo era caduto appropriatamente accanto al vaso da notte familiare, con mille scuse a Lindley Murray. La propinquità del giovanotto non gli era certo di scara, colto com'era, distanghè e impulsivo per soprammercato, di gran lunga il meglio di tutto il mazzo, per quanto non si potesse forse dire che in lui ci fosse, ma sì, via, si poteva. E poi diceva che il ritratto era bello, il che, si dica quel che si vuole, era vero. Per quanto attualmente ella fosse decisamente più grossa. E perché no? Si davano a bere un sacco di storie per cose di quel genere, che ti infangavano una persona per tutta una vita, con il consueto paginone sensazionale sul consueto pasticcio matrimoniale, implicandosi una relazione illecita con un giocatore di golf o la nuova rivelazione del palcoscenico, invece di trattare tutta la cosa con onestà e distacco. Come fosse destino che dovessero incontrarsi e un vivo attaccamento avesse a manifestarsi tra i due, cosicché i due nomi fossero accomunati agli occhi del pubblico. Ciò fu esposto in tribunale con le lettere contenenti le consuete espressioni melense e compromettenti, senza possibilità di scappatoie, dimostrando che essi coabitavano apertamente, 2 o 3 volte alla settimana, in un noto albergo sulla costa. E che i loro rapporti, seguendo il normale corso degli eventi, erano divenuti a suo tempo intimi. Quindi la sentenza interlocutoria, l'intimazione del procuratore del re, e non avendo egli fatto opposizione, la sentenza era divenuta definitiva. Ma quanto a quella, i due trovati in colpa, largamente assorbiti come erano l'uno dell'altro, potevano tranquillamente permettersi di ignorarla, il che fecero largamente. Finché la cosa non fu messa in mano a un legale, che a tempo debito sporse querela per conto della parte lesa. Egli, Blum, aveva goduto del privilegio di essere vicino al re non incoronato di Erin, in carne ed ossa, quando capitò la cosa in quello storico fracà in cui i fidi satelliti del condottiero caduto, che non abbandonò il posto di combattimento, come è risaputo, e resistette fino all'ultima goccia del suo sangue, pur ricoperto del manto dell'adulterio, i fidi satelliti del condottiero, dicevamo, in numero di 10 o 12, o forse anche più, penetrarono nella stamperia dell'Insurpressible, che dico mai, degli United Island, appellativo incidentalmente niente affatto appropriato, e fracassarono i caratteri con martelli o arnesi analoghi. Il tutto per via di qualche scurrile effusione delle facili penne degli scribacchini o brainisti, pronti come al solito a gettar fango addosso agli altri e riferentisi alla morale privata dell'ex tribuno. Per quanto palesemente un uomo cambiato, egli era pur sempre una figura imponente, sebbene trascurato nel vestire, come al solito, con quello sguardo di ferma e tranquilla decisione che faceva tanto effetto sulle pappe fredde. Finché non scoprirono con gran disdoro che il loro idolo aveva i piedi di argilla, dopo che l'avevano messo sul piedistallo, del che ella fu comunque la prima ad avvedersi. Poiché quelli erano tempi particolarmente tempestosi, nel tafferuglio generale Blum ebbe a soffrire lieve danno da una punzonata di un qualche gomito in mezzo alla folla, naturalmente ivi accorsa. In un punto attorno alla bocca dello stomaco, fortunatamente cosa non grave. Il suo cappello, di Parnell, cioè, fu fatto inavvertitamente volar via e, come fatto di interesse strettamente storico, Blumba fu colui che lo raccolse nella calca, dopo essere stato testimone dell'accaduto, nell'intento di renderlo, il che infatti fece con la massima sollecitudine. All'uomo, che ansimante e scoperto con la mente lontana mille miglia dal cappello in quel momento, essendo pur tuttavia un gentiluomo di nascita, con interessi nel paese, e che di fatto si era imbarcato nell'impresa più per la sola gloria che per altro, buon sangue non mente, instillato in lui nell'infanzia sulle ginocchia della madre, dove aveva appreso le buone maniere, e si manifestò immediatamente perché si voltò verso il donatore e lo ringraziò con un aplomb perfetto, dicendo: «La ringrazio, signore», per quanto in un tono molto diverso da quello della voce dell'ornamento del foro, il cui copricapo Blum pure aveva rimesso a posto in un periodo precedente della scorsa giornata. La storia che si ripete, ma con qualche differenza, dopo l'inumazione di un amico comune, quando lo avevano lasciato solo nella sua gloria, dopo la tetra incombenza di affidare i suoi resti mortali alla tomba. D'altra parte, ciò che più profondamente provocava la sua collera erano i lazzi fragorosi dei vetturini e del resto della compagnia, che prendevano tutto in scherzo, ridendo smodatamente, fingendo di capire tutto, il perché e il per come, e in realtà non sapendo cosa pensavano, perché solo le due parti in causa erano al corrente di tutto, a meno che, in seguito, anche il legittimo sposo ne venisse a parte in conseguenza di qualche lettera anonima del solito Jones, che era capitato loro tra i piedi come per caso al momento cruciale della positura amorosa, stretti l'uno nelle braccia dell'altra, attirando l'attenzione sul loro illecito procedere e provocando un putiferio domestico, e la bella colpevole a chiedere il perdono del suo sposo e signore in ginocchio e a promettere di troncare la relazione e di non ricevere più le sue visite se il marito oltraggiato vorrà solo lasciar correre e metterci una pietra sopra, con le lacrime agli occhi e le dita incrociate, forse al tempo stesso, perché probabilmente ce n'erano degli altri e parecchi. Lui personalmente, essendo incline allo scetticismo, credeva, e non si faceva scrupolo di dirlo, che un uomo o degli uomini al plurale stessero sempre lì attorno a una bella donna ad aspettare in fila, anche supponendo, per amor della discussione, che lei fosse la migliore moglie del mondo e i due andassero d'amore d'accordo, fino al momento in cui, negligendo i propri doveri, a lei sembrasse bene stancarsi della vita coniugale e concedersi il brivido di una elegante depravazione e attirare allora su di sé la loro attenzione con fini inconfessabili, il risultato finale essendo che il suo affetto si spostasse su un altro, causa questa di molte liaison tra donne sposate ancora attraenti sulla quarantina e uomini di loro più giovani, come senza dubbio parecchi casi famosi di infatuazione femminile provavano in maniera lampante.